Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Mattino di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. Italia, sì, Italia no, Italia gnamme, se famo tu spaghi. Per rispettare pertanto i tempi stabiliti dal calendario dei lavori, la Presidenza è oggettivamente impossibilitata a vagliare nel merito l'abnorme numero di emendamenti, se non al prezzo di creare un precedente che consenta di bloccare i lavori parlamentari per un tempo incalcolabile. Italia è viva! Io dovrei sospendere di fare il presidente e per 17 anni stare a leggere 85 milioni, sospendere l'aula quantomeno. Non ci sta. Italia sì, Italia no. Presidente, lei dice che per esaminare con minuto ciascuno i vari emendamenti impiegherebbe 17 anni. Io ho usato l'algoritmo, ho fatto i conti. Lei starebbe qui 161 anni se vi si dedicasse 24 ore al giorno. Italia Prod, la terra dei cachi. Visto che i presidenti delle camere decidono quanti e quali emendamenti si possono presentare dei regolamenti, e quindi dal nostro punto di vista il presidente Grasso si dovrebbe vergognare per il suo atteggiamento. Italia è viva. Quest'oggi, Presidente, vige in quest'Aula il regolamento del Marchese del Grillo, che come tutti sanno in quel momento in cui veniva liberato, mentre invece tutti gli altri venivano arrestato, disse: io sono io e voi non siete un cazzo. Italia no, Italia sì. Eccolo lì, cronache dal Senato, dove Grasso ha cassato gli emendamenti di Calderoli e Calderoli la vede così come il Marchese del Grillo. Au, tra l'altro oggi sto a Roma alle 6:32 minuti, quindi adesso mo parlo un po' così. C'ho Valerio Rocchetti negli studi di Roma di Radio 24 che mi guarda e mi saluta, mi ha portato anche un caffè. Ma qui gli studi sono tutti al contrario, c'è il microfono al contrario, i tasti del microfono al contrario. Ma è che guidate anche al contrario a Roma? Cioè, non lo so, che fate come in Inghilterra? Guidate, mamma mia ragazzi, ma guidate a sinistra, ma che fate qua? Negli studi di Roma! Questo è 24 Mattino, saluto anche a Milano, tanto mi sentono Peter Vescapè in regia e Alessandro Longoni, anche oggi Alessandro Longoni per il terzo giorno consecutivo sbrandato, perché c'è il nostro Lorenzo Nespoli un po' acciaccato, le febbre, sono giovani, sono debosciati, che dovete fare? Domani pare che Lorenzo Nespoli torni tra noi. Licenziato! No, non diciamolo neanche per scherzo, Amici, allora scrivetemi al 349-238-6666 via sms per dirmi quello che volete. Allora, perché Grasso ha scontentato tutti. Grasso praticamente ha cassato 85 milioni di emendamenti, ma ne rimangono 380.000. Quindi ha scontentato la Lega, che dice ci ha tolto gli emendamenti, ma ha scontentato anche Renzi, pare anche lui insoddisfatto, perché dice doveva fare di più, doveva togliere anche quei 380.000, porca miseria, perché altrimenti è un po' un casino anche con solo 380.000 emendamenti. Va bene, questo è 24 Mattino, vogliamo subito convocare quelli del 2015, evviva le rosse, torna, ma diventa evviva la Paola! Paola! Con Paola Saluzzi e Paola Saluzzi. Special guest Paola Saluzzi. E altri pipitti di cui allora, non ce ne frega assolutamente nulla. Eccola qua. Grazie sempre per la sigla, io sono commossa, ma sono indignata. Sì, lo so. Ma come? Ecco. Sei a Roma? Eccolo, lo sapevo, ma subito. Ma non ho capito, ma portavo immediatamente il caffè, una torta di mele. Ma no, perché una sono... cosa qualunque, un modo sobrio per iniziare in maniera dolce la giornata. Alino! Sono stato convocato a Lilli Gruber ieri, e quindi sull'attenti mi sono presentato a Lilli Gruber. Beh. E quindi, Paolina, ti prometto, faccio una dichiarazione d'amore così in diretta. La prossima volta ti porto a cena, A che cena? Io voglio portare lì la colazione. Il programma, il tuo programma è migliore del mio. Ma insomma, il tuo programma è migliore del mio. Io volevo fare una citazione cinematografica, però. Sì. Alzi la mano chi ieri, quando ha sentito dire abnorme, non ha pensato al mitico Abnormal, ovvero Igor, ovvero ecco. Frankenstein Junior. Ecco, vi prego, ecco, ditelo, ecco. Ditelo. Vi prego, guarda, non dirlo per scherzo, perché vedo già Longoni e Peter Bescapè che sono lì. Li vedo qui da Roma, perché lì a Milano stanno già. Abnormal, questo il grande mitico Marty Feldman. Ma chi l'ha detto? Grasso? Grasso l'ha detto. Sì. Abnorme. Essendo una fan scatenata di Frankenstein Junior, ho visto subito l'immagine. Abnorme. Comunque, tutto cassato. Insieme a Paola Saluzzi, voglio salutare il nostro direttore di Vanity Fair. Il nostro. Buongiorno. Eccolo. Il nostro Luca. Buongiorno, Dini, eccolo qua. Io sono a Milano, Sì, sì, tu sei. Ho capito, direttore. Però attenzione, c'è subito l'audio. Non ce l'arrabbierà, No, io non. Eccolo. Mi arrabbierò. Abbi qualcosa. Abbi norme. Sono quasi sicuro che era quello il nome. È grasso, più o meno. E vabbè. È meraviglioso. E poi dice: io ho messo addosso ad un energumeno di 2,20 metri largo come un armadio. Vabbè, a memoria praticamente. Un energumeno lungo 2,20 metri e largo come un armadio a due ante. Canaglia! È questo che vorresti dirmi? E così, ma tu poi faresti così a Calderoli come nel film? Cioè No, però che devi fare? Allora cassato tutto, vabbè, ma tanto la riforma del Senato lo sappiamo, non è neanche facile da spiegare. Comunque, questo è, caro direttore, visto che cassano tutto, Grasso dovrebbe star lì quanti anni a leggere tutto? Però senti... Io ripensavo, no, c'è un sistema, per esempio quello americano, dove con un voto di 3/5 della maggioranza l'aula può bloccare l'ostruzionismo. Cioè, se Grasso non ha avuto scelta, cioè, che cosa doveva fare? Cioè, se si mandasse avanti questa cosa qua, praticamente la minoranza deciderebbe, vincerebbe. Cioè, non è democrazia. No, più che altro è il contrario della democrazia. Ma sì, ma è chiaro che questi milioni di eventi erano stati fatti per l'ha ostacolare. L'ha fatto esattamente per questo, cioè bloccare. Certo. Ma infatti, non so se avete visto, la reazione di Calderoni non è stata al di là del Marchese del Grillo. È stato così un po' era compassato in aula, cioè sapeva, dai, sei consegnato. Cioè, la reazione la trovo ridicola, è tutta una recita, diciamo. È un po' una recita. Del tutto. No, non siamo sfumati. Paola Saluzzi, anzi, se incontri Calderoli, diglielo proprio, è così. Il nostro direttore. Vabbè. Vedete come siamo cinematografici oggi, il Marchese del Grillo, sì. Una recita e tutto. Vuoi chiedere qualche altro film? Noi siamo qui. Per mettere alla prova Alessandro Longoni, la nostra regia, per capire quanto ci mettono, così li cronometriamo. Perché se tu chiedi un film, se ci mettono più di 12 secondi, potremmo licenziarli, come dice Oscar. Potremmo licenziarli. No. È così. Qui funziona così. Mi sento un po' Radio Kim Jong-un. Mi sento un po'. Vabbè, ancora di no. Comunque, cari amici, allora i nostri amici della Zanzara ne hanno combinata un'altra. Terribile. Terribile in che senso? Terribile per Marino, terribile per la Zanzara, terribile per il Papa. Terribile, basta. Terribile. Sentite un po' qui, sentiamo, dai, un pezzettino della telefonata del finto Renzi, Andro Mercù, il nostro grande Andro Mercù, che chiama Monsignor Paglia per capire allora se il Papa è arrabbiato perché Marino si è imbucato la festa, diciamoci che, no? Ecco. Pronto? Monsignor Paglia? Sì, sono io. Buonasera, Palazzo Chigi. E inizia così, io la chiamo, Palazzo Chigi, ma io già dico, ma Monsignor Paglia, pronto, Palazzo Chigi, era un nostro collega lì in radio, che Palazzo Chigi, le passo Renzi, e così, e in Italia si può tranquillamente, vabbè, un po' di, giustamente... Questa è una musica molto da Palazzo Chigi, effettivamente, e poi... Ecco. Matteo, buonasera, mi dispiace disturbare. Ma non diciamo frescacce. Dico sinceramente, la chiesa come... volevo scomodare il Santo Padre per questa cosa. No, guarda, sei bravissimo. E meno male, io ma che c'entra, vorrei bravissimo. Capire come sono andate davvero le cose. Dunque, le cose secondo me sono andate che lui si è brigato per e sfruttare questa situazione, e per questo fa imbestialire il numero uno. Il numero uno, questa è la vera notizia. Luca Dini non lo chiama neanche il Papa il numero uno, monsignor Paglia. Cioè, ma capisci perché però si riconosce, posso dire, monsignor Paglia è un pochino. È un pochino sì, poteva. Ma si sentiva che non era lui, dai. È stato un po' sprovveduto. Tra l'altro il Corriere chiama poi Monsignor Paglia e gli dice: Monsignore, ma lei per caso ha parlato con un imitatore di Renzi? No, non credo. E mette giù terrorizzato perché ha capito che ormai la frittata era fatta. Però il dato di fatto è che Monsignor Paglia ammette questa cosa. Insomma, il Papa è arrabbiato. Ma tu, Luca e Paola, vorrei capire, Luca, dimmi, tu hai capito tutta questa vicenda, che cosa c'è sotto, cioè perché il Papa... Io mi chiedo se il numero uno è arrabbiato per quello che è successo davvero o per quello che hanno scritto i giornali, perché cioè, mi sembra francamente una storia montata ad arte, nel senso che intanto ufficialmente Maria non ha mai detto di essere stato invitato al Papa o questo è vero, ufficialmente. Questo è vero. Sì, ma quando tu hai un Papa e se si fosse, se avesse cercato di infilarsi in qualche cosa, credo che il Papa sarebbe abituato a persone che cercano di infilarsi alle sue cose, nelle sue udienze. Quindi e quindi questo certamente ho trovato molto triste. Ma triste soprattutto da che lato? Triste da parte di chi? Molto onestamente da parte del Papa. Da parte del Papa. Infilarsi in una polemica così, l'ho trovato tristissimo. Guarda, io farsi trascinare in una polemica così, l'ho trovato. Anch'io devo dire che un Papa, o meglio, ho trovato triste Papa. La domanda, non vorrei essere... Però sai, la domanda... Il direttore del giornalista che ha fatto quella domanda. Vabbè. Il fatto però che il Papa vogliamo più alto. Intervenga su una cosa del genere fa un po' specie. Paola Saluzzi, tu che dici? Cioè, a parte che voglio dire, ci sarebbe da dire, ma dopo che sei il sindaco di Roma, dopo che ti ha smentito il Papa, ma che serve lì? Ma che fai? Ti converti? Cioè, cosa fai? Come te ne esci da questa situazione? Paola Saluzzi. Posso cambiare argomento? Sì. No, scusate. Cambia argomento, certo. No, assolutamente. Ne esci, vedremo. Roma è una città che ha visto tante cose. Anche con questa. Con tanta, come dire, e questa forse, guarda, è la cosa più... È l'atteggiamento tra i più belli, il più brutto dei romani, che tendono a dire, è successa anche questa. Adesso questa polemica si capirà. E si passerà avanti. Abbiamo tanti problemi, tanti grandi, e soprattutto tanti. Se posso aggiungere che Alemanno, indagato per il 416 bis gongoli per questa cosa, la trovo ridicola, cioè, non ridicola, poi... tristissima. Cioè, qui è tutto poi buttato in politica. Ci sono argomenti più interessanti, questo è vero, questa vicenda. Non volevo dire questo. Per esempio, cara Paglia, no, ce n'è uno molto attuale invece che è tornato sui giornali: il ponte sullo stretto di Messina. Ah, ragazzi, ma che paese siamo? Quello si definirebbe un gran classico. Ma che paese siamo? Forse. Quello in cui qualcuno ha tirato fuori ieri Alfano ha detto sì, cioè qualche giorno fa Alfano, e pare abbiano tirato fuori l'idea di rifare il ponte sullo stretto di Messina, ma solo per i treni, non solo per una questione. Mi sembra un'idea fantastica. Ti faccio questo quiz, sapete chi ha detto: dopo la vittoria in guerra porrò un bel ponte sullo stretto? Io oggi l'ho twittato. Benito Mussolini. Cara Paola, Benito Mussolini l'ha detto. Il ponte sullo stretto di Messina, perché attira così tanto il ponte sullo stretto di Messina? Sai che io non l'ho mai capito. Perché? Forse perché è effettivamente il posto più stretto di mare nel quale fare un ponte, questo è anche vero. Se faccio un ponte tra Roma e la Sardegna sarebbe un po' complicato, no? Ma non così, attira le folle. Non lo vedremo. No, ma guarda, puoi cominciare a contare. Vedremo cosa succederà. Ecco, conto, è la prima settimana decisiva per la costruzione del ponte. E ci ritroviamo qui quando Grasso avrà finito di leggere gli emendamenti di Calderoli. Semmai avesse dovuto leggerli, a contare ancora le settimane decisive. No, andiamo al traffico. Vediamo se c'è traffico sullo stretto di Messina, sul ponte in costruzione, perché poi rientriamo con Luca Dini, direttore di Valtifer. Devo già dirlo, caro Luca, qui a Roma, oltre a essere i microfoni al contrario, i tasti del coso al contrario, guidano al contrario, non mi hanno neanche portato Vanity Fair nella mazzetta, quindi dovrai oltre che nuclearizzare Roma. Oh, così ci facciamo amici tutti romani. Dovrai farci la cronaca proprio dalla copertina di Vanity Fair. Tra un attimo, c'è il traffico, Milan. Formaggio Gran Moravia, capolavoro della filiera ecosostenibile, vi presenta Fiori Fantasia. Forza, dai, che ce la fai. Fermi tutti, basta vendemmiare. Milan, non ce la faccio, mi preparo per la prossima volta. A son sempor mi s'andré col del rima baseda, che stiverta quando il politic a squatch la capleda. Intervista de più chi politic salta fos, chi mani e chega, che il ghigni da balò. Noi ettore assieme a chi a pagar del tassi, e tutti i dì sempre in combattimento. E loro si raddoppiano la pagnota, i siamo tutti parenti in Parlamento. E in domni in volvo, in inciamo in un centoner, e nuetor povret, tutti di abbiastumer. Molto bene, adesso Paola Saluzzi vi tradurrà in... Hai preso nota. Ma qualcosa l'ho capita, qualcosa. Sì, che si è diffusa qualche sostanza strana tra i nostri ascoltatori. Però bellissima, mi ha fatto, adesso faccio un complimento all'ascoltatore, mi ha fatto ricordare con Nino Guerra. Ma io sulla fiducia, cioè nel senso qualche parola qua e là si capiva, poi c'è questa cosa che io non ascolto la segreteria telefonica prima e quindi tutto in diretta a quest'ora. La signora che ha detto non ce la faccio, mi preparo per la prossima volta. Sì, quella è bellissima. Tutta un mito quotidiano dei nostri giorni. Esatto, tutto ascoltato. Non il messaggio, no, e credo che sia Romagnolo Stretto, credo. Sì, molto certo. Molto stretto, vero dire. Quindi, Rima Basella. Rima Basella. Attenzione, perché forse Luca Dini, no, però tu non sei di quelle parti, Tu non sei. Però lo capisco. Lo capisco. Quindi ecco qua la traduzione, Luca Dini. Sono vicino. Prego, vuoi dirci? No, vabbè. Allora, prima Paola, che dicevi sul traffico? Che è vero che guidano al contrario? No, quando hai detto guidano al contrario è meraviglioso. No, vabbè. è una pregina. Ci sono dei momenti in cui i cambi di verso del traffico a Roma ti portano a dire ma sto andando contro mano. No, hanno giustamente cambiato verso alla strada e quindi ti capita anche questo. L'importante... ma è l'idea. E in quei casi cosa si fa? Cioè andare avanti come se nulla fosse? Ma cioè, si sposta la guida, lui, la guida a Roma si sposta lei. Si pone una guida cannibale più delle volte, perché uno, io giuro, io per i primi 6 mesi di patente, ormai presa qualche tempo fa, ma ero fa. Proprio un gioiellino. Ma brava, a 6 mesi un giorno ho detto qui o si fa l'Italia o si muore, nel senso o impari a guidare alla romana. Sì. O non guidi a Roma. Allora ti dico che intanto nel frattempo nell'interfono, cioè mi comunica Valerio Rocchetti, mi fa: oh, se guidi a Roma si può guidare da tutte le parti. È vero, Valerio, hai ragione. Rocchetti, la vede così. No, ma facciamo educazione civica per i nostri ascoltatori. A Roma puoi guidare da tutte le parti. Cioè, quando... Anche. E se imparerò puoi guidare anche sul ponte, sullo stretto poi. Sì, esatto. A quel punto il ponte sullo stretto ti fai le sgommate, ti fai la gincana e via. Ragazzi, no, il ponte però è vero. Chi ha la patente a Roma e guida a Roma per un po' di tempo è abilitato a guidare ovunque nel mondo e avrà... Vi dico solo una cosa, sapete una città più ordinata di Roma? Napoli. Napoli. Oh. A Napoli si guida in modo più ordinato che a Roma. Hai voglia di dire, il traffico di Napoli? Non è vero, è più ordinato. Comunque, ci comunicano che era dialetto parmigiano. Questo prendiamo per fede, ce lo dice un ascoltatore VS. No, non lo so. Di confondere emiliani e romagnoli. No, vabbè, ma abbiamo detto era dialetto emiliano-romagnolo e abbiamo salvato capre cavoli. Non abbiamo detto che era romagnolo e quindi va bene così. Era dialetto parmigiano. Questo ci dice un ascoltatore. Vabbè, insomma, questa storia del ponte sullo stretto io non so che aggiungere, Luca, niente, dobbiamo andare oltre, perché anche questo, cioè, è il Papa, sì, andiamo sì, oltre, è il ponte sullo stretto, andiamo oltre. No, ma i ponti sullo stretto esistono già sono stati già fatti dei lavori, Ma che sì, ma voglio dire, ma hanno fatto dei lavori, hanno fatto commissioni, hanno fatto studi, abbiamo speso anche un sacco di soldi, ma... Ma sembra veramente un paese che viaggia all'incontrario, invece che guardare avanti guarda all'indietro. Ponte sullo stretto. Ma poi quello che trovo ridicolo, cioè, ammesso che si faccia mai, ma lo fai solo ferroviario, buono, non so. Sì, a quel punto dici fai un bel ponte sullo stretto per far fare le gincane a Valerio Rocchetti. Cioè, posso capire gli inglesi, perché poi se no a metà del tunnel c'era il cambio di carreggiata, era un po' brutto, diciamo. Va bene. Allora, Luca, caro Luca Dini, ho qui il numero di Vanity Fair. No, perché a Roma Vanity Fair non arriva. No, scherzo, c'è stato un errore, nel senso che non è stato messo in mazzetta e quindi arriva anche a Roma. Ebbene, ora svelaci un po' tutto. Hai 2 minuti per dirci. Copertina e... Allora, in copertina c'è Taylor Swift, che immagino non ti dirà molto, però credo che la foto ti piacerà. Però dentro c'è invece un'inchiesta su un reportage sulle sparizioni di Medjugorje, che è abbastanza inquietante. C'è Paolo Brosio intervistato? No, le persone che scompaiono proprio, cioè... È una tragedia, purtroppo. C'è persone che non si trovano più, persone ma veramente? Cioè, nel senso, persone, che vanno a Medjugorje, sì, morti, dispersi, riti satanici, brutta roba. Oh, mannaggia. Ma questo lo leggeva con molta attenzione, cioè, perché ci sono persone, ma quante sono queste persone? Quanto si stima che siano? Ma ufficialmente c'è una decina di dispersi, diciamo, ufficialmente, però cioè, ci sono andati a Medjugorje, abbastanza morti. Per motivi vari che non sono un pochino inquietanti, diciamo. E soprattutto c'è questa concentrazione di satanisti che, vabbè, che forse è comprensibile, però di cui io personalmente sapevo poco. No, io sapevo zero, sapevo assolutamente zero, anche perché Medjugorje certo non l'associeresti proprio al satanismo, però capisco che insomma, questo succede. Lo leggerò con attenzione, mentre Valerio Rocchetti guarderà con attenzione la copertina prima di Vanity Fair. Alino, io devo fare una cosa che non si fa mai. Falla. Devo fare dei saluti. Oh, posto? che bello. Certo. Voglio salutare il signor Osvaldo, che è un argentino doc, bello. 100%, e che è il nostro angelo custode all'ingresso di Sky. Quindi è una persona splendida che ti ascolta tutte le mattine. Sì, perché è obbligato, soprattutto il mercoledì, così tu lo interroghi poi dopo. Ma assolutamente, veramente, generalmente è lui che interroga me. Io ho sentito mercoledì e hai detto questo e questo, e dicevo, una persona tenerrima, tanto tanto cara, mi permetto di fare una dedica. Chissà se si facevano ancora, non so se si facciano ancora le dediche in radio. Volevo vuoi mettere salutare una canzone d'amore anche? No, no. Ma no, no, no, no, no, però no. Volevo salutarlo, volevo tutto qua. Hai fatto una cosa molto, molto bella. Salutiamo anche noi Osvaldo, ti mandiamo un grosso abbraccio qui dagli studi di Radio 24, che sono al contrario, quindi l'abbraccio sarà un po' attorcigliato, ma arriva. Basta fare che Roma è al contrario, poi proprio il milanese. Arriva. Ma che maniere? Sì, che viene a Roma, invece di dire al contrario, fatti sentire. Ecco, per la colazione. Io dico no, per la cena e la Palasaluzzi, no, ti porto la colazione. Chissà se saranno contenti tutti a casa Saluzzi. Non lo so se saranno contenti tutti. Va bene, io vi devo salutare, caro Luca Dini, direttore di Vanity Fair, che trovate da oggi in edicola, al nuovo numero con Taylor Swift in copertina, e Paola Saluzzi alle 15, ricordate, Sky TG24 pomeriggio in onda. Grazie, alla prossima. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Alessandro Mela, che leggerà le notizie in una maniera che non potete rifiutarvi. 24 mattino. E allora siamo qui alle 7:18 minuti, pronti a leggere i giornali. Siamo dagli studi di Roma Oggi in diretta. Che dire, parleremo poi di attualità politica, avremo ospiti alcuni amici, colleghi che spesso convochiamo, Chiara Geloni, il direttore di Radio Padania Alessandro Morelli. E poi avremo anche la nostra Veronica Gentili, che verrà a trovarci in studio qui tra poco, dalle 8:15. Parleremo dell'attualità politica, soprattutto il Senato, la riforma in primo piano, ma non solo. Parleremo delle notizie delle prime pagine dei giornali e vediamoli allora questi giornali come pongono le notizie di oggi. Questo mercoledì 30 settembre, allora, le scelte sono variegate. Il Sole 24 Ore apre sulla voluntary disclosure, rientro dei capitali, c'è il rinvio a fine anno, ieri la decisione del governo, evitate due clausole di salvaguardia per 1,4 milioni. Mentre il Senato e l'apertura per il Corriere della Sera, Senato i due fronti di Grasso, questo è il titolo di prima pagina, per il Messaggero invece riforme al voto, tempi a rischio. Repubblica, l'attualità è internazionale in prima pagina, l'ISIS è circondato, Obama lancia il patto anti-jihad, il presidente americano dice pronti a lavorare con Russia e Iran. Anche per la stampa, Libia, l'impegno di Renzi all'ONU, pronti a un ruolo guida, questo da parte dell'Italia. Il premier italiano parla a New York e Putin, scrive la stampa, prepara la spartizione della Siria per fermare l'ISIS. E poi c'è il redivivo progetto del ponte sullo stretto che incredibilmente ieri è rispuntato come ipotesi, fare il ponte sullo stretto di Messina ma solo per i treni. Ideona il ponte sullo stretto, questo è il titolo molto ironico del Fatto Quotidiano di prima pagina, così anche il Manifesto mette Alfano e Renzi in foto e il titolo è Sotto il ponte. Libero invece l'ultimo progetto di Boeri, che è il presidente dell'INPS, se te ne vai all'estero ti tagliano la pensione. Il piano INPS, assegno ridotto agli anziani che scappano dall'Italia per pagare meno tasse. Il Giornale invece mette un'inchiesta di Quattro Ruote in prima pagina, Quattro Ruote svela il bluff dei test sulle auto. Vedremo però altri titoli di prima pagina, intanto voglio già iniziare a leggere alcune notizie come la vicenda del sindaco di Roma Ignazio Marino, che oggi ancora esonda sui giornali, anche perché i nostri amici della Zanzara, Giuseppe Cruciani, ne hanno combinata un'altra delle loro con il nostro imitatore Andro Mercù, che si è spacciato per Matteo Renzi, hanno chiamato il presidente del Consiglio Pontificio per la Famiglia, Monsignor Paglia, il quale, pensando di parlare con Renzi, l'abbiamo sentito anche prima alle 6:30, dice di Marino, se è imbucato e il Papa è furibondo. Questi sono i concetti che Monsignor Paglia, pensando di parlare con il Premier, ha rivelato alla Zanzara Radio 24. Per la verità Monsignor Paglia non dice il Papa, lui lo chiama il numero uno. Il numero uno nell'audio della telefonata. Comunque, Monsignor Paglia sul caso Marino, si è imbucato il Papa furibondo. Questo è il titolo di pagina 20 del Corriere della Sera, che dedica, al di là dello scherzo, alle polemiche per il viaggio di Marino, nuove pagine. Anche Repubblica dedica due pagine. Opposizione all'attacco: Marino deve dirci quanto ha speso negli Stati Uniti. Ecco, perché questo è il tema. Tra l'altro, si è scoperto che questa Temple University di Filadelfia ha invitato Marino per questa lecture, vi piace, lecture, cioè un discorso, una conferenza, un convegno, un intervento del sindaco Ignazio Marino, e l'ha pure pagato. Cioè, o meglio, l'università americana dice: abbiamo offerto, come a tutti coloro che vengono qui a fare delle lectures, un compenso. Non sappiamo però se Marino abbia accettato o meno questo onorario, e non sappiamo neanche di quant'è l'importo. Questo è un portavoce della Temple University intervistato dal Corriere della Sera. Beh, questo è veramente un po' strano, cioè non sapere quanto sia l'importo, visto che sono loro della Temple University che le avranno proposto. Forse non lo vuole dire quant'è l'importo, però non dice se Marino abbia accettato o meno questo importo, o se invece l'abbia, come dire, lasciato lì, abbia detto, abbia declinato. Interessante però è il retroscena di Goffredo De Marchis a pagina 15, perché al di là degli scherzi, al di là delle polemiche, al di là di chi ha pagato il viaggio, al di là del fatto che Marino addirittura potrebbe aver intascato dei soldi per fare questa lecture, Goffredo De Marchis su Repubblica dice che Renzi è abbastanza arrabbiato, per usare un eufemismo, e dice ai suoi così: il sindaco va cambiato, ma dopo l'anno santo. Cioè, come dire, ormai siamo a ridosso del giubileo e dunque non si può fare più nulla, ma nel 2017 si vota a Roma. Prima non possiamo fare niente, l'anno santo è praticamente cominciato. Questa è la posizione di Renzi ai suoi. Alla domanda: ma può reggere ancora un anno e mezzo la puntellatura di Marino? Dicono nella sede del PD: a meno che non ne capiti un'altra, ce la può fare. Certo, c'è anche Orfini, che è il commissario del PD a Roma, e ammette l'irritazione del Vaticano. Dice a stretti denti, secondo Repubblica, hanno ragione riguardo alla posizione di Marino in questo viaggio. Comunque, eccolo qui anche sul Corriere della Sera: l'università americana, gli abbiamo offerto un compenso. E quindi c'è anche questa polemica del fatto che potrebbe essersi intascato dei soldi Ignazio Marino. Va bene, lasciamo questa vicenda, andiamo invece alla polemica, un'altra che c'è da ieri sui giornali, c'è per la verità da qualche giorno, per il rapporto tra il Partito Democratico o parte del Partito Democratico e Rai 3. Ora scopriremo questa sera se Rambo ha fatto più ascolti di Floris e di Giannini, cioè di Martedì e di Ballarò. Comunque, che cosa c'è? C'è la bufera per le dichiarazioni soprattutto dell'onorevole Anzaldi. Ieri l'abbiamo lette sul Corriere della Sera. L'onorevole Anzaldi in pratica ha detto: a Rai 3 non hanno capito chi ha vinto, proprio non riescono ad accettare il fatto che c'è un nuovo presidente del Consiglio, c'è un nuovo segretario del PD. Tanto che Grillo l'ha bollato come Goebbels, l'ha soprannominato così, Goebbels Anzaldi. Vietato criticare il governo. Qui ovviamente c'è stata la replica politica di alcuni del PD a dire: ma come, proprio quelli del Movimento 5 Stelle non sono quelli che lanciarono la caccia al giornalista ostile, il giornalista del giorno? Insomma, comunque su Rai 3 è bufera sul PD, come titola pagina 8 il Corriere della Sera. Grillo dice: il PD, o meglio questo Anzaldi, è come Goebbels. Mentre sempre il Corriere racconta con Paola Di Caro come sia spaccato il CDA della RAI. C'è Freccero, uno dei membri del CDA, che insorge ma resta solo, parla di editto bulgaro, dice Freccero: sono senza parole, è peggio che grave, è inammissibile, è una cosa indegna. È chiaro che a questo punto Rai 3 così diventa intoccabile. Freccero è totalmente indignato per le parole dell'onorevole Anzaldi, che appunto ieri sul Corriere della Sera diceva: qui a Rai 3 non hanno capito chi ha vinto le elezioni. E peraltro l'onorevole Anzaldi insiste, fa un paio di interviste, una piccolina a Repubblica, una un po' più ampia, intervistato da Antonello Caporale sul Fatto Quotidiano, e quindi salto lì al Fatto Quotidiano, pagina 5, eccolo qui, Vianello, che è il direttore di Rai 3, e Berlinguer, che è il direttore del TG3, Vianello e Berlinguer, grazie, ora potete andare. Questo è il titolo pacato dell'intervista, che riassume un po' il pensiero dell'onorevole Anzaldi, che intanto dice: io cronometro, guardi che io parlo in base ai dati dell'osservatorio di Pavia. Ad agosto il TG1 dà il 26% di spazio al PD, il TG2 il 21,4%, il TG3 il 38%. Uno sproposito! Infatti, uno sproposito! Ma perché danno così tanto spazio al TG3, accusa Anzaldi? Per dar voce a Speranza, ad Attorre, cioè agli antirenziani all'interno del PD, accusa Anzaldi. E allora, se devi togliere spazio, devi toglierlo al governo? Quanti PD esistono? Per la verità, Anzaldi poi in questa intervista al Fatto Quotidiano dice: comunque De Luca, il governatore della Campania, che ha detto Rai 3 fa camorrismo giornalistico, De Luca è stato imbarazzante. Senta Anzaldi, ma a questo punto, vabbè, Grillo le dà del Goebbels. Grillo dovrebbe regalarmi una cesta di cannoli siciliani, risponde Anzaldi. Guardi che i cannoli ricordano Cuffaro, ex presidente della regione, suo conterraneo, ora in carcere. Chi è siciliano non può che amare i cannoli, risponde ancora in maniera un po' criptica Anzaldi. E che poi dice: ma senta, quindi il direttore di Rai 3, Vianello, fosse per lei, lo caccerebbe? Beh, certo che deve dare un chiaro e immediato segnale editoriale. Ok, licenziato, dice l'intervistatore Antonello Caporale. E licenzierebbe anche la direttrice del TG3, Bianca Berlinguer? Sono per le newsroom. Solo due direttori di TG. Guarda caso dice due. Immagino che i due non contemplino il terzo, cioè Bianca Berlinguer, aggiungo io. Se dipendesse da me, riterrei che la Berlinguer ha dato tanto, ma così tanto alla RAI che può anche bastare. Insomma, così l'onorevole Anzaldi non arretra di neanche di un millimetro, di mezzo millimetro. Vogliamo saltare subito all'articolo che oggi ci fa tenere le mani sul volante, l'articolo che ci fa più insare della giornata. Eccolo qui. Sul giornale, Massimiliano Mugnaini racconta la parabola davvero incredibile di Daniele Lama Trubiano. Chi è? Da super poliziotto, anche arrestato, ha contribuito ad arrestare una BR, Cinzia Banelli, a scrittore, a rapinatore di provincia. L'agente della Digos arrestato dai colleghi, assistente capo della Digos, con un passato nell'indagine sulle nuove BR che condusse all'arresto della brigatista pisana Cinzia Banelli, autore di libri gialli, attivissimo sui social network, padre di famiglia e improvvisamente rapinatore di un supermercato. Solo lui, se deciderà di interrompere il mutismo con gli inquirenti, potrà rivelare cosa gli sia scattato nella testa due giorni fa attorno all'ora di cena. Daniele Trubiano, 50 anni, di Lucca, ma residente a Pisa, il crimine lo combatteva per lavoro e qualche volta commentava: ma per 1300 euro al mese ti puoi beccare anche qualche grammo di piombo. E così, forse proprio per problemi economici, ha deciso di passare dall'altra parte della barricata e vestire i panni del cattivo di uno dei suoi libri. Ed eccolo qui allora, da super poliziotto anti-BR a rapinatore di provincia. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice: sono cose che capitano. Narcista. Come vuoi il giornale Alessandro Mino o lei e nessuno. Catanzaro. Grandi da Catanzaro. Questo veramente... questo è il top, come direbbe il nostro amico... Giuseppe Cruciani, che guarda che ne ha combinata una, l'ultima con Renzi, Monsignor Paglia. Dopo ve lo facciamo risentire alle 8. Allora, io vi ho detto e vi ho invitato a mandarci le sigle in tutti i dialetti italiani. Se volete mandarci anche dalla Svizzera, ci ascoltate un dialetto ticinese, dall'estero, mandateci quello che volete allo 0246524492, la nostra segreteria telefonica. Allora, intanto parliamo di politica. Parliamo di politica, lo facciamo con la riforma del Senato, su cui aprono alcuni giornali. Che è successo ieri? Beh, Grasso, presidente del Senato, numero due, carica numero due dello Stato, ha dichiarato irricevibili gli 75 milioni di emendamenti presentati a Roberto Calderoli. Però perché si legge sui giornali, per esempio pagina 3 del Corriere della Sera, che c'è la rabbia dei renziani? Ma come? Cioè, ha tolto tutti questi ostacoli? Perché? Perché in realtà Grasso un po' ha scontentato tutti, questo a leggere almeno i retroscena. Ha scontentato certamente i leghisti, Calderoli ha citato il Marchese del Grillo, no? Io so io e voi non siete un... E continuate poi per terminare la celebre frase del film di Alberto Sordi. E quindi ha scontentato i leghisti, ma ha scontentato anche i renziani, perché, come dice Lorenzo Guerini, vicepresidente del Partito Democratico, sono rimasti 380.000 emendamenti, quindi 85 milioni, o meglio 75 milioni irricevibili, ma ne rimangono 380.000, che sono un ostacolo sulle date. Tanto che Renzi, nel retroscena di Maria Teresa Media, pagina 3 del Corriere della Sera, continua a dire ai suoi: state tranquilli, entro il 13 ottobre si vota, i tempi sono contingentati, non vi preoccupate, non esiste che la riforma del Senato non passi entro quella data. 13 ottobre, questo per Matteo Renzi, e poi via con le unioni civili, questo nell'agenda del Premier. Però rimangono 380.000 emendamenti. E allora, che succede? Eccolo qui il giornale. Grasso, padre padrone, scontenta destra e sinistra. Cancella 72 milioni di emendamenti, sono 72, non 75, e fa infuriare le opposizioni. Ma neppure il governo è soddisfatto, perché l'ostruzionismo resta e restano 380.000 emendamenti. È interessante l'articolo di Sebastiano Messina, pagina 17 di Repubblica, e l'algoritmo del leghista si arenò nel miglio verde. Racconta cosa è successo in questa vicenda Calderoli, con Grasso che dice: dovrei sospendere i lavori dell'aula per 17 anni per dedicare un minuto a ogni emendamento. Si sbagliava. Se lui non avesse disinnescato con l'aggettivo irricevibili 72 milioni di emendamenti, la bomba orologeria sganciata su Palazzo Madama dal perfido Calderoli, i senatori avrebbero dovuto fermarsi fino a domenica 18 maggio 2177. Lasciando in eredità la riforma della Costituzione ai nipoti dei nipoti dei loro nipoti. Perché solo per stabilire se quegli emendamenti fossero ammissibili, dedicando a ciascuno di essi appena un minuto e lavorando per 24 ore al giorno senza fermarsi mai, ci sarebbero voluti 161 anni, 7 mesi, 21 giorni. Nel frattempo il Palazzo del Senato sarebbe scomparso sotto le 41.650 tonnellate di carta che sarebbero servite per distribuire le copie di quegli emendamenti, ovvero 20.570 volumi per ogni senatore. Insomma, queste le cifre impressionanti, ma che fosse una provocazione da parte di Calderoli era abbastanza evidente. Sta di fatto che per fermare questo ostruzionismo, scrive Messina, hanno dovuto lavorare 80 funzionari del servizio assemblea, lavorando 19 ore al giorno per 6 giorni. Hanno applicato un software per dare un numero ai milioni di emendamenti e così Grasso ha potuto dichiararli irricevibili. Quindi chi di software ferisce? Calderoli, che con l'algoritmo ne aveva presentati 85 milioni, di software perisce, e con la contro software hanno dichiarato irricevibili questi emendamenti, e va bene, e la riforma del Senato può andare. Oh, però uno quando legge questa notizia veramente ti fa pensare che in Italia a volte ripiombiamo indietro, non dico di secoli, ma quantomeno di qualche anno, di decennio, perché incredibilmente è rispuntato il ponte sullo stretto di Messina. La vicenda può far sorridere, se non fosse una vicenda seria. C'è stata una mozione che prima è stata ritirata, poi è stata ripresentata e che impegna il governo a mettere mano alle infrastrutture del Mezzogiorno e tra cui anche rivalutando il progetto del ponte tra Sicilia e Calabria, il ponte sullo stretto di Messina. In prima battuta, racconta Andrea Ducci sul Corriere della Sera, pagina 6, il sottosegretario alle infrastrutture Umberto Del Basso De Caro ha invitato i deputati di NCD e UDC a eliminare ogni riferimento agli impegni della realizzazione del ponte. Poi invece il cambio di rotta, specificando che l'esecutivo è pronto a valutare l'opportunità del progetto del ponte sullo stretto come infrastruttura ferroviaria, previa valutazione del rapporto costi-benefici. Cioè rispunta il ponte sullo stretto, ma questa volta in teoria solo per le ferrovie. Voi potete capire gli editorialisti, i commentatori, come si sbizzarriscono su questo tema. Sergio Rizzo in prima pagina del Corriere della Sera rivive il progetto dalla storia infinita. Se uno ha un grande amore dall'altra parte dello stretto, potrà andarci anche alle 4 del mattino senza aspettare il traghetto. È ciò che prometteva 10 anni fa agli amanti Silvio Berlusconi. Ah, l'amore. Non esiste motivazione più potente. Neppure Cupido, tuttavia, è riuscito a trasformare in realtà la grande illusione. Il ponte è stata certamente la più grande di tutte, scrive Sergio Rizzo. Ma cosa sarebbe la politica italiana senza promesse, illusioni? Sono così reali talvolta che si finisce per crederci. Nel 1956 stamparono una cartolina con la fotografia «Vera foto», c'era scritto accanto alla minuziosa descrizione dell'opera. Il ponte sullo stretto di Messina, progettato dall'ingegner Mario Palmieri, italo-americano, sarà il più lungo del mondo. Pensate, nel 1956, ma racconta, perfino Benito Mussolini disse, dopo la vittoria nella guerra, getterò un ponte sullo stretto di Messina. Vabbè, sappiamo com'è andata, chiosa Rizzo, ma anche Filippo Facci, in prima pagina su Libero, ironizza molto su quello che è tornato in auge, il ponte sullo stretto. Qual è il problema? Scrive Filippo Facci. Il ponte sullo stretto di Messina ha fatto ammucchiare circa 2 quintali di documenti, ha fatto spendere centinaia di milioni di euro in studi e progettazioni. È stato promesso da Mussolini, Craxi, Prodi, Di Pietro, Berlusconi. Ora non si sa, forse Alfano, se ne sono occupati 35 governi, 239 ministri in 15 legislature. Che problema c'è se ora se ne riparla ancora una volta? Ci sta anche. Se davvero sta tornando la DC, è giusto che torni sul tavolo anche il progetto del ponte sullo stretto. Magari non proprio sul tavolo, ma insomma. Certo, Graziano Del Rio smentisce. Forse ci deve consolare, cari ascoltatori, l'intervista che il presidente dell'ANAS Gianni Armani rilascia al Fatto Quotidiano. Pagina 3, Daniele Martini lo intervista e parte proprio dal ponte e dice il presidente dell'ANAS: l'ANAS è il principale azionista della società del progetto del ponte, ma come dice il ministro Del Rio ci sono altre priorità. Non ha senso parlare del ponte senza un'adeguata analisi costi-benefici alla quale siamo pronti a contribuire. Poi parla di altre cose, da Salerno-Reggio Calabria, dicendo è quasi finita, ma è inutile intestardirsi a costruire per forza costosi tratti progettati su un tracciato alternativo. Ma certo il titolo dell'intervista viene monopolizzato dalla vicenda del ponte, il titolo è questo, non ha senso parlarne, ci sono ben altre priorità. Ecco, chiudiamola come fa Iena sulla Stampa. Ponte. La notizia è che Alfano ha avuto un'idea. Graffiante, urticante, come sempre, Iena. Ma intanto io voglio salutare Mauro Meazza. Buongiorno Mauro. Buongiorno, buongiorno. Oggi giornatona, perché... Oggi la volontà di disclosure, voglio dire. Ieri in TV da Lilli Gruber ne abbiamo parlato un pochino. Ma ho visto, infatti ho intercettato qualcosa al proposito e volevo farti le domande sulla volontà di disclosure, visto che hai avuto modo di... ti rimando al Sole 24 Ore, dove proprio nelle primissime pagine spieghiamo questo rinvio che è finalmente arrivato. Allora c'è tempo fino al 30 novembre, finestra fino al 30 dicembre per le integrazioni e poi, ma come forse ti ha spiegato la stessa direttrice dell'Agenzia delle Entrate, mi pare, ci sarà un anno per i controlli, si riservano un anno per i controlli. Mi sembra che te l'abbiamo spiegato proprio in altissimo loco, così ho letto sul Sole 24 Ore perlomeno. Sì, esatto. Senti, esatto. A che settimana siamo per l'abolizione delle province? 126, decisivo. Ok, allora dovremmo aggiungerne 25 o 30? Nel senso, perché se tu vedi la parte di norme e tributi, le pagine di norme e tributi che religiosamente devi leggere, sempre, specialmente ora che hai queste alte frequentazioni presso il fisco, ecco, scoprirai che per la mobilità dei dipendenti delle province, perché le province le aboliamo, ma i dipendenti bisognerà pure metterli da qualche parte, c'è tutto un cronoprogramma che prevede più o meno 6 mesi di tempo. Quindi facendo due conti fanno 25 settimane circa, forse tra 25 settimane abbiamo concluso il tuo conteggio. Sei contento? Insomma, almeno abbiamo una Sempre data. Per la tua nuova specializzazione di fiscalista, ti consiglio, non puoi perdere certamente la guida alla riforma fiscale che trovi sempre nelle pagine di norme e tributi. Oggi parliamo di ravvedimento, tu conosci benissimo il ravvedimento, non voglio tediarti con queste piccinerie, però sappi che con il Sole 24 Ore di oggi ci sono anche 16 pagine sul decreto per l'internazionalizzazione, cioè vuol dire se l'impresa ha rapporti con l'estero, intrattiene rapporti con l'estero, allora sono cambiate le norme fiscali, ma lo so che non vorrei portare vasi a Samo e nottole ad Atene, insomma, come si dice. Poi ti voglio anche segnalare invece le pagine di finanza. Sappi che oggi la Commissione presenterà il suo piano per una maggior trasparenza nel mercato dei capitali, è importante. È importante, adesso non è che ti devi concentrare solo sulle tasse, devi anche guardare le altre sezioni del Sole 24 Ore. E infine, ultimo ma non per questo meno importante, sappi che dal 5 ottobre il CDP, il certificato di proprietà, diventa digitale, soltanto online. Un cambiamento importante. Come mai te ne parlo adesso di certificato dei veicoli? Indovina un po'. Chissà perché. È arrivato il momento della mia parola di commiato. Traffico! Gran Moravia con l'etichetta multimediale ti fa visitare la sua filiera ecosostenibile. Vi presenta Alessandro Milan, rapport, abbia legge giunore da Ramanere che nisce una milizia prima in Domun, dialetto foggiano. Ma grandissimo, anche da Foggia. Ma io vi amo, cari ascoltatori, vi amo tutti quanti. Allora, intanto vi segnalo che Silvio Berlusconi, che ha fatto il compleanno, racconta al Corriere della Sera, in genere nei compleanni uno riceve i regali, invece lui ha fatto un regalo. Questa è una notizia che c'è sul Corriere della Sera. Berlusconi ha comprato una casa, una villa, dove andrà a vivere Francesca Pascale. Questo grande gossip, pagina 11, una pagina del Corriere della Sera dedicata a questa notizia. Tommaso Labate, una villa in Brianza, Casate Novo, comprata da Berlusconi. Lì probabilmente andrà a vivere Francesca Pascale, perché l'ipotesi è che il leader torni a vivere da solo ad Arcore. Ecco questa. Questa una pagina, va bene. Comunque andiamo ad allargare un po' gli orizzonti. Obama, politica internazionale, dice l'ISIS è circondato. E tra l'altro c'è il primo disgelo dopo il faccia a faccia, dopo 2 anni di gelo invece tra lui e Putin. Restano i contrasti sul ruolo di Assad e sul destino di Assad. Tra l'altro il segretario generale dell'ONU dice attenzione, perché ci sono i foreign fighters, cioè i combattenti che vanno nelle zone di guerra, soprattutto dove c'è l'ISIS, partendo da paesi occidentali, ce ne sono da 100 paesi. Su questo interessante articolo di Repubblica, Fabio Tonacci, pagina 4, il dossier su foreign fighters sul tavolo dei leader. Pensate che di italiani ci sarebbero 87 partiti dall'Italia, individuati dal Ministero dell'Interno, più che raddoppiati rispetto a un anno fa, e che sono ora a combattere in zone in genere dove c'è lo Stato Islamico. La buona notizia, se vogliamo, è che nessuno di loro è ancora tornato in Italia. Quelli con vero passaporto italiano sono in realtà solo 6. Ma non abbiamo un fenomeno di reducismo, a differenza di paesi quali Francia o Belgio, cioè al momento nessuno torna o ha volontà di tornare. È chiaro che bisogna però tenerli ben sotto controllo, questi foreign fighters. Sarebbero 6 col passaporto italiano, ma 87 partiti dall'Italia. Questo è il ministero. A proposito di immigrazione, però, c'è una notizia che è la prima pagina di Avvenire che mi preme segnalare. È un articolo molto interessante di Lucia Bellaspiga. Perché? Perché si racconta la vicenda dei cosiddetti bambini fantasma. Questo è il titolo di prima pagina di Avvenire che va un po' chiarito. E cioè questo: in Italia, per una normativa del pacchetto sicurezza di quando era ministro Maroni, ministro dell'interno nel 2009, il migrante, l'immigrato, per registrare il proprio figlio che nasce in Italia ha bisogno di presentare anche il permesso di soggiorno. Se non ha il permesso di soggiorno non può registrare all'anagrafe un bambino, che diventa per questo colpevole di essere nato di fatto. Bambini fantasma, è vietato ai migranti senza permesso di soggiorno iscrivere i figli all'anagrafe, e Avvenire fa l'appello: questa legge è da correggere perché crea una difficile condizione di molti minori che si trovano irregolari nati in Italia. Neonati fantasma, dramma italiano, questo è il titolo dell'inchiesta di Lucia Bellaspiga, che trovate ad Avvenire a pagina 5. Per quel che riguarda invece la cronaca, c'è la denuncia di genitori che dicono: nostro figlio è stato allontanato da una classe a Monza perché gay. L'episodio, ovviamente, come avviene in questi casi, ci sono diverse versioni. La versione dei genitori, che dicono hanno preso una foto di nostro figlio a torso nudo, qualcuno l'ha fatta vedere al preside, il preside lo ha allontanato dalla classe. La scuola dice: in realtà lo abbiamo fatto per proteggere lui stesso, per difenderlo da episodi di bullismo che si stavano scatenando nei suoi confronti. Insomma, mio figlio allontanato dalla classe perché gay è un po' esuberante, dice la madre, ma a scuola è bravo e lo hanno discriminato. Questo sulla Stampa, ma tutti i giornali riportano questa notizia. E allora, che dobbiamo fare? Siamo quindi quasi in chiusura? Siamo all'ultimo articolo, peccato, altri non ho avuto tempo di leggerli, ma eccolo qua, l'articolo più inutile scovato oggi sui giornali. Quello che a mio insindacabile giudizio vince la carta costa, è successo, racconta il Corriere della Sera, che ieri per 20 minuti Facebook è andato in crack. E allora il Corriere scrive: che cosa hanno fatto gli utenti nel mondo con Facebook giù per 20 minuti? Chi ha detto: e come faccio a sapere di chi è il compleanno oggi? E come faccio a mettere la foto del mio gattino? Il mio gattino, vi rendete conto? Ma chi se ne frega? Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Gran Moravia e burro delle Alpi di Brazzale, fidati di chi conosci da 200 anni. Vi presenta Ladies and Gentlemen, and now Alessandro Milan. Ciao Milan, che te mattino mi fuoco. Ragazzi, siete spaziali. Alessandro Milan! Ma che cazzo è Alessandro Milan? Ebbene sì, sono le 8 e 18 minuti, cari ascoltatori, vi do il numero subito per i vostri sms, 349-238-6666, se volete anche chiamarci in diretta 800-24-0024 è il nostro numero verde. Oggi vogliamo parlare un po' degli argomenti che sono sui giornali, dell'attualità, certamente l'attualità politica, la vicenda del Senato, certamente... No, non vogliamo parlare del ponte sullo stretto, no, vi prego, no, questo no, il ponte sullo stretto di Messina, no. No, no, no, forse si farà, forse no, questo l'hanno detto negli ultimi 60 anni, ma se volete dirci anche che ne pensate del ponte sullo stretto di Messina, facciamo anche quello. E parleremo anche un po' dello scherzo, anzi sicuramente partiremo da qui, dallo scherzo che è stato fatto da quei manigoldi della Zanzara, il nostro amico Giuseppe Cruciani, che vedremo al gabbio presto per questa vicenda, a Monsignor Paglia. Monsignor Paglia, va tra poco, racconteremo tutto. Intanto saluto Chiara Geloni, che è al telefono con noi. Chiara, buongiorno. Buongiorno. cara Chiara, qui devo dire che c'è stata invece un'irruzione negli studi di Roma, perché oggi sono a Roma, perché c'è la nostra Veronica Gentili che è venuta a trovarci. Colpo di scena. E tutti gli ascoltatori ormai sanno che siccome tu latiti e fuggi, no? Ogni volta che vieni a Roma bisogna venirti a scovare nella tana. È la storia. E quindi a un certo punto ho deciso di fare il ride, capito? Certo. È un po' come la storia di Maometto e la montagna. Esatto. Va bene. Allora, venuta a scalare la montagna. Esatto, è venuta a scalare la montagna. Eccola qui, la nostra Veronica Gentili. Allora, ho messo anche una foto su Twitter, se mi seguite sul profilo Alino Milan di Veronica Gentili, che è arrivata qui, insomma. Così evitiamo di cominciare con i commenti geisha, così adesso. No. In due secondi. No, il commento dalla regia è tanta roba, possiamo dirlo. Ecco, tanta roba. Perché la regia è di alto livello oggi, va detto così, certo. Bisogna fare questa considerazione. qui a Roma, come a Milano, è sempre di altissimo livello. Sempre di altissimo livello. Allora, che ti ha combinato il nostro Giuseppe Cruciani? Sapete che c'è questa vicenda del sindaco Marino. In realtà la vicenda è molto seria, è politica. Pare che Renzi abbia detto: Chiara Geloni, ascolta il tuo amico presidente del Consiglio del tuo stesso partito, Partito Democratico. Marino, ce lo dobbiamo tenere ancora un anno perché ormai c'è il giubileo, ma poi basta. Questa è un retroscena che c'è oggi su Repubblica. Solo che è successo? Vuoi già... lui veramente voleva non tenerselo neanche per il giubileo, se non ricordo male quello che c'era sui giornali qualche mese fa. Cioè lo voleva subito. Si vede che si è acconciato ad aspettare il giubileo. Non è... insomma, è vero che è il segretario del mio stesso partito, ma anche Marino sarebbe un sindaco del suo stesso partito e del tuo non stesso è che partito, venga molto aiutato stesso. Dal suo segretario nazionale, al di là delle difficoltà oggettive. Vabbè, ma adesso lo sentiamo questo stralcio di scherzo che la Zanzara che ha fatto, ha preso il nostro Andro Mercù, imitatore straordinario, che si è spacciato per Matteo Renzi, niente meno, e hanno chiamato Monsignor Paglia. Vogliamo subito sentirlo, perché Monsignor Paglia ha detto delle cose, sentiamo. Pronto? Matteo. Buonasera, mi dispiace disturbare. Ma non diciamo frescacce. Vorrei capire come sono andate davvero le cose. Dunque, le cose secondo me sono andate che lui si è brigato per sfruttare questa situazione e per questo fa imbestialire il numero uno. Il numero uno, capito Veronica? Neanche lo chiama il Papa, Monsignor Paglia, non il numero uno. Vabbè, ma questo è giusto. No, mi stavo interrogando sulla reazione ad uno scherzo di questo tipo, no? Uno dopo, come si sente il secondo esatto in cui viene fuori che uno scherzo, uno desidera così sparire, sprofondare. Sì, o convertirsi. No, lo diciamo con tutto rispetto per Monsignor Paglia, che tra l'altro il Corriere della Sera è andato proprio a sentire, a dire: Monsignor Paglia, ma lei sa che ha parlato con un imitatore di Renzi? No. E lui ha detto: no, non credo proprio. Non credo proprio e ha chiuso bruscamente la telefonata. Vabbè, perché ti prende una sincope, certo. C'è l'attimo in cui ti passa tutta la vita davanti e ti chiedi cosa avrò detto mai io di imperdonabile. No, però io vorrei porre questa domanda a Chiara Geloni e a Veronica Gentili: ma è davvero un caso così eclatante o si sta esagerando su questa vicenda di Ignazio Marino, questa sorta anche di accanimento? Chiara, tu che ne pensi? Io penso che ci sia un po' di accanimento e allora penso che ci sia all'origine un problema, all'origine c'è che ci sono i problemi di Marino con la sua città e tutto quanto. Sul fatto dell'incidente specifico c'è un problema, io sono riuscita finalmente a sapere quale era la domanda che era stata fatta al Papa, perché dalle registrazioni che giravano l'altro ieri non si sentiva la domanda, si sentiva solo la risposta. La domanda che è stata fatta al Papa dice: ma lei cosa pensa di questo fatto che Marino dice di essere stato invitato da lei? Cosa che Marino non ha mai detto. Lui ha sempre detto di essere stato invitato dal sindaco. Sì, il Papa chiaramente si irrita ed è inutile nascondersi, soprattutto dopo lo scherzo a Monsignor Paglia, che indubbiamente il Papa è un po' irritato per questo presenzialismo, per questo entrismo di Marino, però il Papa si irrita perché gli viene chiesta una cosa che lui non è tenuto a sapere se è vera o se non è vera, e ovviamente crede vera una cosa che invece sì, risponde, non è vera. Risponde più pensando che altro l'hanno infilato delle beghe di condominio, e esatto. Secondo me è per questo che, no, che lui a un certo punto ha voluto rimettere a posto la cosa. Detto questo, cioè non è che c'è un accanimento su Marino, cioè si spara proprio sulla Croce Rossa, e l'abbiamo difeso a spada tratta anche rispetto alla premessa che faceva Chiara, cioè tutta la posizione che ha preso il PD, Renzi in primis, è stata assolutamente indecorosa. Detto questo, è anche vero che Marino ha proprio un'attitudine ad attirarsi gli strali su di sé, nel senso che ogni volta riesce a fare la mossa sbagliata al momento sbagliato, e questa cosa di Filadelfia onestamente era evitabile, sì, cioè reduce da polemiche. Anche perché la vicenda nuova che è nata è che pare che questa università dove è stato chiamato a fare questa lecture, questa lezione, abbia pagato Marino per questo, o meglio dicono: noi abbiamo offerto, come a tutti coloro che vengono qui a fare lezioni di questo tipo, un compenso, un onorario. Non sappiamo se Marino l'abbia accettato o meno, per cui c'è anche il rischio di doverti giustificare per essere andata a prendere dei soldi, Marino. Vabbè, ma insomma, vabbè, può anche darsi che non li abbia presi, dai, adesso. Anche, ma no, infatti, ma queste secondo me poi sono speculazioni. Quello che io non capisco, così il dubbio della giornata, è che Marino era veramente un medico straordinario, era un luminare. Io mi domando chi gliel'ha fatto fare. Ma davvero, eh? Ma me lo chiedo di buttarsi in politica tutti i giorni. Ma sì, perché non era un medico, dici, sai, facevo il medico, ma era veramente un luminare, uno di quelli che avrebbe dovuto avere il massimo della soddisfazione. Faceva trapianti di organi, aveva studiato i trapianti dai babbuini agli esseri umani. Non ho capito per quale motivo poi dopo è finita così. Vabbè, però lo vogliamo sentire ancora, il falso Renzi. No, Margherita, il falso Renzi e il vero Monsignor Paglia. Lo dico in toscano, sei imbucato. E certo che sei imbucato. Cioè, poi io non so che cosa ci hanno detto lui e il sindaco Natta, era un bravo uomo, una brava persona, però nessuno l'ha invitato cioè, ufficialmente da parte nostra, assolutamente. Io con lui parlai una volta, ma così, insomma. Questo, c'è qualcos'altro, no? Spero, non lo so, sentiamo, c'è qualche altro stralcio, insomma, del Monsignor Paglia, che peraltro parla, sentite un po'. Il Papa era furibondo. Posso immaginare. Io cerco di capire se vi fidate di Marino, se c'è fiducia in vista del Giubileo. E questo è il problema. Secondo me, lui, quando stava lì, ha insistito per vederlo e per rivederlo. E questo ha fatto scocciare tremendamente il Papa. Probabilmente Marino aveva qualcosa da farsi perdonare a Filadelfia. Poi sta cercando in ogni modo un appoggio. Ma è questo, sai, con il nostro non funziona. Con il nostro, il numero uno è il nostro. No, qui il tema però, per chiudere questa pagina, è Chiara e Veronica, il Giubileo. Cioè, perché adesso scherziamo, ma tra poco c'è il Giubileo. Ma sono matti. C'è questo rapporto, Monsignor Paglia, secondo me questa è la frase, forse che è passata un po' sotto traccia, ma più con più, maggiore rilevanza per quello che potrà succedere da qui a qualche mese. Cioè, quando dice questa volta sembra uno di quei giochini masochisti della sinistra old style, no? Dice: dobbiamo fare il Giubileo a Roma, delegittimiamo Marino proprio fino all'ultimo in tutti i modi, però lasciamolo lì per il Giubileo. Maniera tale che se riusciamo a non mandare in porto nemmeno questa, siamo contenti, abbiamo fatto gol. Dal punto di vista politico, però, chiaramente. Gironi, ti chiedo, ripeto, adesso quando dico amica di Renzi, sappiamo, è spesso nostro ospite, critica la posizione del Presidente del Consiglio, ma un sindaco così delegittimato dal suo stesso partito o dalle critiche, e in una città, nella città più importante d'Italia, in vista del Giubileo, ma non è proprio invece il caso che possa cadere politicamente? Non lo so, io su questo, a questo punto, non ho più una risposta certa, nel senso che è vero quello che dici tu nella domanda. Secondo me non si doveva arrivare a questo punto, e per molti aspetti non ho capito perché ci sia arrivato, perché è vero che Marino ha i suoi difetti, ma non c'era assolutamente bisogno di reagire indebolendolo e senza riuscire a risolvere il problema, ammesso che Marino sia il problema. Cioè, se si riteneva il problema si sarebbe risolto mandando via Marino, bisognava almeno che ci si riuscisse, invece non si è riuscito. No, cosa che peraltro è stato eletto dai cittadini, ma hanno fatto come volevano, gli hanno messo il tutorial mettendo Gabrielli, tutti i tutori possibili, sì, anche insomma la nuova giunta, c'è stato un rimpasto che è stato fortemente diretto dal Partito Nazionale, no? È chiaro, tutta una specie di rimpasto filorenziano. E quindi adesso bisognerebbe veramente che a 2 mesi dall'inizio del giubileo si facessero funzionare le cose, si facesse il possibile, che poi la politica è l'arte del possibile, del governare i problemi. Invece si continua con le campagne di stampa, ripeto, anche Marino pensa di risolvere il problema per via mediatica e questa volta ha avuto una lezione terribile, sì, che forse sì, neanche si meritava, però si continua a parlarsi attraverso i giornali e forse bisognerebbe essere un po' più concretamente, un po' più amichevolmente al fianco, al sostegno di questa città, prima ancora di questo sindaco. Ma sì, ma nel momento in cui c'è una smentita del Papa, io non capisco come. Sì, però è come se Marina avesse un deficit di intelligenza politica dal punto di vista proprio strategico nel proporsi. Allora, se si decide, e in questo momento sembrava che si fosse deciso di non sostituirlo, non ti metti nella condizione di metterlo alla berlina davanti a tutti, perché non è utile per nessuno. O tu decidi, anche perché questo poi è sempre sulla pelle della città e sulla pelle di chi è governato da quel sindaco, sì, quindi non ha senso alcuno. Ma tra l'altro, riguardo alla città, noi sentiremo poi nella parte finale della trasmissione, vogliamo tornare anche sulla vicenda che ci ha raccontato il presidente dell'AMA, che è l'azienda municipalizzata che si occupa dei rifiuti, Fortini si chiama, e ha detto, ma poi lo sentiremo più avanti, Roma è sporca anche e soprattutto per colpa dei romani, visto che qua... Ecco, io faccio vedere io al presidente dell'AMA. Ecco. Subito. Io devo dire una colte cosa sul vivo. Però, non è che ha detto Chiara Geloni e Veronica Gentili butta le cartacce voglio approfittare biecamente della mia posizione in questo momento di essere in una radio per dire caro presidente dell'AMA, ci avete portato i sacchetti per la raccolta differenziata nel mio quartiere? Dove sono i bidoni dell'organico? Questa è una domanda sacrosanta. Ora non vogliamo tediarti con i problemi io e Chiara che abbiamo qui in città. No. Però guarda che è una cosa veramente... No, ma attenzione, io invece sto tutto... assolutamente sto dalla parte, quando dico, e l'ho detto spesso, che spesso i problemi dell'Italia derivano dal fatto che siamo italiani. E quindi, ma lo dico anche, Milano è sporca ed è diventata più sporca. Certo, ci vogliono i cestini. Allora, innanzitutto si poteva evitare di prendere in giro Alessandro Gassman quando ha lanciato la campagna. Lui, infatti, Daniele Fortini dice un grande applauso ad Alessandro Gassman. Tutti l'hanno preso in giro. Voglio fare la raccolta differenziata. Vabbè, allora vogliamo ascoltarlo. Dico alla regia subito. Cambiamo scaletta. Chiara è veramente sconvolta come me da questa cosa della raccolta differenziata. Parleremo del Senato, però. Vogliamo mandarlo subito Fortini? Sentiamo Fortini che ha detto su Roma e romani, la città sporca. Vedo anch'io che Roma non è pulita come dovrebbe esserlo. Confido nel fatto che il 55% dei cittadini romani, intervistata sul tema, dice la colpa è dei romani e non la colpa è dell'azienda e dei suoi dipendenti. Anche secondo lei c'è questa responsabilità? Sì, sì, assolutamente sì. La penso come la maggioranza dei romani. E cioè che se la città è sporca è perché qualcuno la sporca. È così. No. Rassegnatevi, allora, è così. Primo, se la non sei buono, vieni mandato in confino a Roma. Perché la sporcate. Cittadini del mondo, anche milanesi, viterbesi. Perché già partendo con queste premesse sembra che qui nella capitale abbiamo come sport quello di buttare cose. No, non dico questo. Ha detto il 55%, ha detto... Ci vogliono più impegno da parte nostra, più collaborazione, più cestini, tutto, sì. Ma una delle cause è che c'è qualcuno che butta la carta. Ma che gli italiani per alcuni versi siano incivili va benissimo. Detto questo, che ci si nasconda dietro a un dito sostenendo che i problemi della città e dell'immondizia nella città dipendono dal fatto che i romani sporcano in maniera particolarmente... Dipendono in parte, non totalmente, ma in parte è così, è vero. Allora, quindi quando c'è stato il problema dei rifiuti a Napoli e nuotavano in mezzo ai rifiuti, il problema sostanziale è che i napoletani erano sozzi e sporcavano la città. No, credo che sia una situazione diversa, non sapevano come smaltirne, non c'erano discariche, non c'erano termovalorizzatori, è una situazione più complicata. Mentre qui il problema è che siamo degli incivili. No, non l'ho messa su questo. Però, scusa, Chiara Geloni, se tu trovi una bottiglia per terra o delle lattine per terra o delle cartacce per terra, è perché non c'è il cestino o perché qualcuno le ha buttate? Guarda, adesso non voglio fare, signora mia, però tante volte è anche perché il cestino è pieno, nessuno l'ha svuotato e le cose cadono per terra. Ma comunque io... posso anche accettare che ci sia una, vogliamo chiamarla, maleducazione, trascuratezza. I romani forse gli piace pensare più a casa propria che alla strada, va bene tutto, però se tu vedi che il pavimento è pulito, quando ti cade una briciola la togli. Ma perché tua. c'è un altro punto di Fortini. Io non lo so se abbiamo anche tagliato un altro audio, lo chiedo idealmente alla regia di Milano, cerchiamo di vedere se, perché Fortini in un altro audio, no, non ce l'abbiamo, comunque dice in pratica che è proprio questo, cioè il concetto è che molte persone, non tutte, ma alcune persone hanno l'atteggiamento di utilizzare i luoghi pubblici splendidi di Roma come di tutte le città, come se non fossero roba loro, capito? Io non sono romana, io vivo a Roma da 20 anni, no? E quindi ero già abbastanza grande quando sono venuta a vivere qua. Posso dirti che 20 anni fa Roma era meno sporca di adesso, eppure i romani perché? Non certo perché è cambiato il popolo romano, sono peggiorate le persone, proprio. Ma cioè, noi romani, anche i milanesi, anche Milano è più sporca di 20 anni fa, sono peggiorate le persone. Sicuramente è un po' più complicato. Per esempio, ci sono molte più persone, e questo non è colpa loro, assolutamente, ma ci sono molte più persone che dormono per strada. Infatti, questo è un problema. Che si è un problema di polizia, non c'è dubbio, la gestione è più complicata. Sociale. Produciamo anche più rifiuti. Esatto, questo è uno degli aspetti fondamentali. Si producono molti più rifiuti, e secondo me c'è anche un essere scoordinati rispetto alla gestione della città tutta. E quello dei rifiuti è soltanto uno degli aspetti. Per cui, se non c'è una riorganizzazione urbana proprio rispetto a come si stanno incrementando le città e sta cambiando l'assetto, secondo me questo è il risultato. Diventa comunque una specie di giungla. Pubblicità 800 24 00 24, parleremo anche della riforma del Senato tra poco. Ci sono chi dice vabbè, questo mi dice Milan idolo, quindi per me lo leggo come unico messaggio che rappresenta tutti i messaggi arrivati. Questo sarà di tuo zio. C'è anche un dramma di Enzo che dice: non vi sento bene da 20 miglia, la sintonia di Radio Padania è più forte. Con questo dramma vi lascio alla pubblicità. Quest'oggi, Presidente, vige in quest'Aula il regolamento del Marchese del Grillo, che come tutti sanno in quel momento in cui veniva liberato, mentre invece tutti gli altri venivano arrestato, disse: io sono io e voi non siete un cazzo. Mi dispiace, ma io sono io e voi non siete un cazzo. È così, il Marchese del Grillo è entrato prepotentemente al Senato. Tra l'altro Calderoli rispondeva al Presidente del Senato Pietro Grasso, che ha giudicato irricevibili i 75 milioni di emendamenti. Per la verità ne rimangono ancora 380.000, quindi Grasso, come racconta oggi il giornale, ha scontentato un po' tutti. Sicuramente ha scontentato la Lega e le opposizioni, perché giudicando irricevibili i 75 milioni ha fatto cadere l'ostruzionismo per cui erano stati prodotti questi milioni di emendamenti. Però ha scontentato, pare, anche Renzi, perché volevano qualcosa di più, perché rimanendo 380.000 emendamenti, e capite che la macchina rischia ancora di essere un po' rallentata. Di questo parliamo ora. Siamo con Chiara Geloni, siamo con Veronica Gentili, ci ha raggiunto anche Massimiliano Fedriga, che ringraziamo, il capogruppo alla Camera per la verità della Lega Nord, ma insomma il partito è quello che ha tentato questo ostruzionismo. Onorevole Fedriga, buongiorno e benvenuto, grazie per essere. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Allora, intanto prima vorrei chiedere, Chiara Geloni, 380.000 emendamenti, Renzi voleva via anche quelli? Ma sai, Renzi è difficile che si accontenti, addirittura lui dice che i telegiornali non parlano bene di lui, quindi voglio dire, figurati se è contento che ci sia 400.000 emendamenti. La questione Rai 3 sarebbe da affrontare. Lo faremo in separata. È difficile accontentare Renzi. Io penso che Grasso faccia il suo mestiere, preservi la sua indipendenza come Presidente del Senato, che deve fare in modo che i lavori del Senato procedano servizi alla maggioranza politica. Questo certamente. Intanto però ha smontato letteralmente questo ostruzionismo della Lega. Onorevole Fedriga, era puro ostruzionismo, parliamoci chiaro, presentare 75 milioni di emendamenti, che cos'è se no? No, ma non c'è dubbio, era ostruzionismo per costringere la maggioranza a trattare. Noi siamo di fronte a una riforma costituzionale per la quale Renzi aveva urlato a gran voce con un grande spirito democratico, le riforme e le regole devono essere condivise e bisogna coinvolgere tutti, non è un disegno di legge di maggioranza, ma deve essere il cambiamento del paese, il risultato che ha fatto carne da macello della Costituzione introducendo delle norme che noi riteniamo sbagliate e ovviamente abbiamo utilizzato gli strumenti che emana l'opposizione, ovvero lo studiosismo, per cercare di convincerli e costringerli a trattare. C'è qui Veronica Gentili che non so che dice non va bene. Hanno usato quest'arma, peraltro è stata spuntata da Grasso. Quindi... Sì, non dico che non va bene. Purtroppo il rischio di finire poi sempre nella butade dietro l'angolo, per cui il sistema è stato anche così, se ne è parlato molto, 80 milioni di emendamenti. Il povero Grasso ieri faceva anche sorridere quando ha detto ci vorrebbero 17 anni e tot guardando così esterrefatto. Sì, è stato anche scarso nei conti, perché pare che si doveva arrivare fino al 2176. No, infatti poi Calderoli soddisfatto ha detto no, sarebbero stati 160. Comunque c'è anche da dire che questa della riforma del Senato, Federica converrà con me, non è stata una delle principali battaglie della Lega, il focus non è stato su quello, quindi Calderoli... Non c'è dubbio. Per quanto ci riguarda, io la battaglia della vita, le dico la verità, la farei sull'abbattimento della riforma Fornero, sugli studi di settore, sull'abbattimento delle tasse, non la farei sicuramente sulle tasse. Infatti è stata un po' una posizione isolata di Calderoli, che in qualche modo è molto più coinvolto invece nella faccenda. Vicepresidente del Senato. Certo, però in quanto rappresentante della Lega l'ha fatta molto in prima persona ed è stata anche, se vogliamo, un po' un gesto istrionico, perché ha trovato questo software e lui che è anche un po' un esibizionista, lo diciamo in senso buono, ma lo è sempre stato, no? Lo possiamo dire, ne ha fatte più lui di Carlo in Francia. Ecco. Anche questa volta ha trovato un escamotage perché se ne parlasse, però, per carità. Onorevole Federica, ha fatto bene Grasso? Cioè lei in qualche modo condivide il fatto che un presidente del Senato abbia giudicato irricevibili tutti questi emendamenti? No, non lo condivido, perché appunto dicevo, noi era uno strumentismo virato a trattare per migliorare la riforma, e un problema politico non si può risolverlo utilizzando delle prerogative che la presidenza del Senato non ha, perché il regolamento non lo prevede un atteggiamento di questo tipo. Oltretutto voglio ricordare che dei quei 380.000 rimasti in realtà ne verranno falcidiati altre migliaia e migliaia con l'inammissibilità, con il canguro, quant'altro, quindi non vorrei che la riforma costituzionale si risolvesse in tre voti. Ma anche perché Renzi oggi scrive i giornali e vuole entro il 13 ottobre approvare questa riforma. La data è confermata, nel senso che dice a tutti i suoi parlamentari in questi retroscena che ogni giorno appaiono sui giornali, entro il 13 ottobre va approvata e così sarà. State tranquilli. Chiara Geloni, qui la situazione è che forse la partita è chiusa da questo punto di vista. Io continuo a sostenere che è una cosa che non sia il primo pensiero degli italiani, ma invece tu ci spieghi che... Chiara. Non si dovrebbe drammatizzare così ogni passaggio parlamentare, per cui adesso bisogna chiudere il 13 perché Renzi vuole che il Parlamento farà quello che potrà fare. Non credo che succeda, insomma, perché bisogna fare le cose sempre con quest'ansia terribile di far contento Renzi. Perché, sì, anche la dittatura dei tempi. Bisogna fare le cose come vanno fatte. No, è la dittatura dei tempi. La dittatura dei tempi. È tutto fatto con questa foga sul collo, no? L'esatto opposto di quella che dovrebbe essere la politica ragionata e pensata. Io sono l'ultima persona al mondo che devo difendere il premier Renzi, non è il mio compito e non mi interessa soprattutto. Non mi interessa e non lo voglio fare, difendere. Anche perché poi... Si sa difendere da solo, ma... Voglio dire, si è presentato ed è diventato Presidente del Consiglio dicendo io voglio cambiare le cose, basta poi questo con le lungaggini. Si è presentato, anche ne parliamo un attimo, poi ragioniamo dove si è presentato agli italiani dicendo basta queste ingessature, le cose ora si devono fare. Però, è chiaro che agisce molto sui tempi. Questa volta però tu mi devi dire veramente la riforma del Senato, no? A chi è stato detto? Gli italiani ci chiedono la riforma del Senato. A chi l'hanno chiesta? Dove l'hanno scritto che volevano la riforma del Senato e che era il loro primo pensiero e la loro occupazione? Vabbè, gli italiani vorrebbero abolirlo il Senato, però forse i sondaggi. Federica, cosa c'è che non va? Volevano anche votare i senatori e infatti Renzi ha accettato questa cosa. Secondo me proprio gli italiani vorrebbero... Il 73% diceva. Secondo me gli italiani vorrebbero abolirlo il Senato se potessero scegliere. O comunque avere un Senato che fa le stesse cose della Camera. Prima dici queste cose e infatti quello non ci sarà più. Prima dici che queste cose non interessa interessano agli italiani. Infatti. Poi dici che se gli italiani vogliono abolire il Senato, forse agli italiani interessano più altre cose, che sono quelle che nominava anche Fedriga. Sentiamo, sentiamo, sulle quali forse appunto, Renzi potrebbe dire dubbio. Facciamo presto, perché per esempio su altri provvedimenti il governo non dimostra. Però sentiamo, Fedriga, forse agli italiani interessano. Fedriga, c'è una dittatura dei tempi di Renzi? Ma no, ma guarda, io penso che la velocità sia utile se si fa una cosa ragionata e fatta bene, magari anche in tempi rapidi. Non è che qualsiasi cosa sia veloce e buona. Faccio un esempio velocissimo. La questione dell'IMU agricola, l'ha inserita, sei mesi dopo dice sarò io che la tolgo. Beh, non mi sembra una genialata averla inserita allora. La questione dell'IRAP, tolta negli ultimi sei mesi del 2014, ha fatto un aumento retroattivo nel 2015. Ecco, non mi sembra anche qua che la velocità sia stata un'ottima consigliera, quindi o le cose si fanno bene o meglio non farle, non è che la velocità sia il termine di paragone che interessa che vengano fatte cose utili per loro. Ci aiuti a capire, visto che anche se lei sta alla Camera ma al Senato di cose, di procedure parlamentari ne conosce più di noi, davvero crede che adesso in tre voti, perché 380.000 emendamenti, no, molti più o meno? Ovviamente non so se sono tre, però sono sicuro che verranno molti. In modo drastico, perché anche quel numero, oltretutto, se Grasso ha detto lui stesso che bisogna rispettare i tempi, 380.000 emendamenti non si risolvono entro il 13 ottobre. A me preoccupa oltretutto che ormai ci siano le Camere che devono sottostare ai tempi dettati dal governo. Guardate, se fa un discorso forse un po' di altri tempi, però l'indipendenza delle Camere rispetto al governo penso sia utile a una democrazia nella quale perlomeno ci sia una contrapposizione di peso. Questa c'è ancora, no? Mi risulta ci sia ancora. Sulla carta c'è ancora. Insomma, se il Presidente del Consiglio va a dire questi sono i tempi, il Presidente del Senato dice dobbiamo rispettare i tempi dettati dal governo, cosa che non esiste, mette in dubbio l'indipendenza della Camera rispetto al governo. Diciamo che nei confronti di Grasso c'è stato secondo me un'assoluta mancanza di gusto, di garbo e di buonsenso, a partire dalla Finocchiaro, che in qualche modo esprimendosi prima di lui ha già mancato di rispetto alla sua, sì, all'istituzione presente al Senato. Detto questo, comunque, su tutti questi emendamenti che restano, no, che vengano falcidiati o meno, il problema è relativo, perché mi sembra che sul punto nevralgico, che era quello dell'elettività dei senatori, si è riusciti a fare un papocchio tale, come al solito, senza che se ne venisse a capo, sì, no? Si è incartata un po' tutta la faccenda affinché non si capisse nulla, quindi ormai ci la siamo. La vera notizia è che Veronica Gentile la pensa come un esponente della Lega, ma sì, no, l'onorevole... posso dire a me cosa provo particolarmente? Se posso dire una cosa dopo? Sì. Dopo, Fedriga, concluda. Si sente male, no, chiaro. Questo velocissimo, sulla riforma del Senato, eletto o non eletto, poteri... Quello che preoccupa in realtà è la perdita di autonomia anche delle regioni, anche quelle virtuose. Poi si vuole fare un'unica marmellata centralista con il nuovo, che, con va, il nuovo Senato, che va ad ammazzare tutte quelle realtà virtuose che hanno ottimizzato i costi e dato servizi ai cittadini. No, vorrei... quello preoccupa, sì, che... Chiara Geloni, che cosa per concludere? Perché poi vorrei un minuto per fare una domanda a Fedriga sul tema che abbiamo affrontato di Roma sporca. Chiara, dimmi. No, volevo dire un papocchio, non è che tutti gli accordi sono papocchi, è stato accolto finalmente questo principio che i cittadini decidono chi va al Senato e non sono i consigli regionali una volta eletti che trattano al loro interno chi vince il premio da senatore e chi ne vince magari qualcun altro. Si poteva fare meglio, con più eleganza, si poteva scrivere meglio, mi dispiace che la Costituzione però nuova... Però Chiara, si è mantenuta una vaghezza male. Forte, questo c'è non si può vaghezza. Non dire. È una mezza vittoria della minoranza. Si parla di designazione, ma non è stata ancora chiarita la forma, è ancora tutto... Si parla però un secondo, si parla di designazione da definire, sì, dentro una legge ordinaria che sarà una legge elettorale. Quindi prima non si parlava di legge elettorale, adesso si parla di legge elettorale, vuol dire che il Senato sarà eletto. Però ho un minuto, no, devo chiedere questo. No, è chiaro. Onorevole Fedriga, rispondere. No, esatto, tratteremo i tecnicismi del Senato più avanti. Onorevole Fedriga, lei di che città è? Di dove? Di Trieste. Trieste, com'è Trieste? Città è abbastanza pulsica. Pulita? È pulita, è sporca? Sì, no, città pulita. Città pulita. No, perché prima abbiamo fatto risentire l'amministratore delegato dell'AMA, l'azienda dei rifiuti qui a Roma, che ha detto due giorni fa ai miei microfoni, a 24 mattino, che se Roma è sporca è anche colpa dei romani. Qui abbiamo Veronica Gentili che subito si è inalberata, Chiara Geloni si è inalberata. Lei che ne pensa che frequenta Roma? È anche colpa dei romani? Faccia bella lista, dica. No, le dico sicuramente che a Roma mi sembra ci sono tantissimi turisti, quindi non so come distingua il presidente dell'AMA, un romano o turista che butta per terra. Detto questo, quando la società dei rifiuti, ridotta com'è, non fa pulizie, ovviamente anche il turista che viene vede tutto sporco, si sente quasi legittimato. A non comportarsi questo, in modo certo, civile. Ma certo, ma il senso civico poi degenera così. Il turista che esatto, butta le cartacce non può entrare al Colosseo, così la finiamo e le due polemiche le sommiamo e la chiudiamo, ed è risolta così, capito? Comunque, molti dicono, è vero, il senso civico si è perso, ma non a Roma, perché c'è chi vi ha scritto, e va bene, a Roma tutti hanno spento Radio 24, ma no, io vi amo romani, vi amo tutti quanti. I romani boicottano Milan, ci sono io a tenere qui alto il nome dei romani, grazie a Dio. Oggi anche la regia, oggi in barba alla regia milanese, agli amici della regia milanese, sì, dico che qui i romani oggi trionfano. Ti ricordi la canzone di Alberto Forti? Sì, vi odio voi romani, no, vi odio tutti quanti. Ah, sta cantando, No, non c'è tempo. Ringrazio l'onorevole Fedriga, ringrazio Chiara Geloni, ringrazio Veronica Gentili. Quando vuoi venire a trovarci, beh, io non ci sono. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei. Va bene, ciao, a domani. Ciao, grazie a tutti.